prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Raccontiamo oggi una bella esperienza di accoglienza all'interno della città. Non parliamo di profughi, che è un tema che poi ci terrò occupati per altre puntate. Parliamo di accoglienza di persone senza dimora all'interno di alcuni appartamenti. Siamo nella zona nord di Padova, zona dell'Arcella, dove ci sono le parrocchie di San Bellino, San Filippo Neri e Santissima Trinità. Alla Santissima Trinità e San Bellino ci sono due appartamenti che hanno due nomi, Terra e Stelle, dove da alcuni anni trovano ospitalità temporanea delle persone senza dimora che poi riescono a trovare un loro percorso autonomo. Succederà questo mercoledì, appunto, con un saluto a uno degli ospiti, si chiama Narciso per la cronaca. Questa notizia bella ci dà l'occasione di raccontare questa esperienza. Lo facciamo con Don Marco Galletti, che è parroco in solido nell'unità pastorale dell'Arcella. Ben trovato, Don Marco. Buongiorno a tutti. Dunque, questa esperienza di accoglienza non è nuova. Abbiamo parlato qualche tempo fa proprio ai nostri microfoni dell'Housing First, promosso dalla Caritas. Caritas che da qualche tempo, appunto, ha in mano anche la gestione di questi due appartamenti. Sono due appartamenti come qualsiasi altro che c'è all'Arcella. Sì, sono due appartamenti che sono inseriti dentro le strutture parrocchiali che sono stati dati alla Caritas per questo tipo di accoglienza, in collaborazione poi con i nostri volontari, quindi una collaborazione che viene fatta tra noi e loro. Questa persona, appunto, in questo mercoledì voi la saluterete, era presente lì da tanti anni comunque in quella zona, prima senza dimora e poi con questa dimora temporanea. Sì, lui è passato prima nell'accoglienza di San Bellino, poi per motivi logistici è passato alla Santissima Trinità e qui ha fatto un percorso con ambedue gli appartamenti, i volontari, che lo ha portato poi appunto a trovare questo piccolo lavoro che ha, a ritrovare anche vari interessi che prima erano rimasti un po' in sospeso e quindi anche a ritrovare una sua autonomia e anche delle sue belle motivazioni per affrontare le giornate. Una sua nuova dignità, una nuova vita, l'appartamento appunto dove andrà lo condividerà con un pensionato. La storia di Narciso è fortunatamente la storia di altre persone che in questi anni stanno passando in questi due appartamenti. Qual è il ruolo delle comunità parrocchiali, aiutate anche magari dalla Caritas diocesana, nella presenza di questi due appartamenti, di queste persone nelle comunità? Ma le comunità accolgono i due appartamenti e quello che è stato fatto in questi anni è cercare di fare in modo che i parrocchiani vengano a conoscenza di questi due appartamenti, vengano a conoscenza dell'utilizzo che viene dato a questi appartamenti e soprattutto delle persone che ci sono dentro e le conoscano proprio come persone. Quindi attraverso anche i volontari che settimanalmente vanno a trovare questi ospiti, ecco, anche attraverso i volontari si è fatto in modo che gli ospiti potessero avere dei piccoli servizi e comunque anche partecipare alla vita ordinaria della parrocchia nella massima libertà di quello che poi loro vogliono fare, quindi hanno prestato servizio durante le sagre, fanno piccoli servizi per il patronato assieme ad altri volontari. C'è questa integrazione che aiuta loro a relazionarsi e aiuta la comunità a vedere con occhi diversi anche le persone più bisognose. C'è qualche resistenza o c'è qualcuno che magari tira il naso per esperienze di questo genere? C'è stato all'inizio, soprattutto in una delle due parrocchie, per paura perché non si sapeva chi erano, non si sapeva che storie potessero avere, non si sapeva che cosa potevano generare, ma la paura poi si è sciolta proprio grazie a questa relazione, grazie a questo lavorare insieme, soprattutto grazie proprio a questo conoscersi che ha fatto sì che si capisse che sono persone che hanno avuto soltanto degli intoppi nella vita, sono persone che hanno reagito in maniera particolare ad alcune difficoltà che hanno incontrato, ma che sono comunque delle persone e soprattutto sono delle persone con cui ci si può relazionare e si può anche collaborare per lo più. Ecco, citavo in apertura il tema dei profughi, come voi che avete già questa esperienza appunto all'interno dell'unità pastorale, come avete reagito a quello che ormai un mese fa ha detto Papa Francesco sull'ospitalità da parte di ogni comunità parrocchiale di una famiglia di profughi? Per voi sarebbe quasi normale? Quasi normale, sarebbe bello lo fosse. In realtà il territorio è un territorio che a gran fatica affronta questo tema. In questo momento le nostre strutture appunto sono impegnate con questo tipo di accoglienza, però a San Filippo Neri abbiamo dato la disponibilità del campo da calcio, delle strutture sportive, perché un gruppo di profughi ospitati qui nel quartiere Arcella potessero venire per giocare a calcio, e adesso stiamo valutando anche di poter fare assieme a loro alcune attività, alcuni servizi. Io credo che il tema profughi vada affrontato più che evitato, e che il tema profughi sia importante soprattutto in questo momento qua, perché diventerà dopo un canale. Conoscerli, riuscire ad avere un contatto con loro, può diventare poi un canale anche per affrontare problemi successivi, visto che ormai non è più soltanto un'emergenza ma andrà avanti come problema. Ringraziamo Don Marco Galletti, parroco in solido dell'unità pastorale all'Arcella di Padova. Tramite lui ringraziamo e salutiamo anche tutte le comunità e le persone che girano attorno alle due realtà degli appartamenti Terra, alla Santissima Trinità e Stelle a San Bellino. Ricordalo all'appuntamento questo mercoledì alle 20 presso il bar del centro parrocchiale della Santissima Trinità per salutare Narciso e magari conoscere più da vicino questa bella esperienza. Avete ascoltato? Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.